24. Storie di star. Di Lucio si può dire tutto. Sicuramente si deve dire che è il profeta più tangibile della canzone italiana. Questo sì. Lucio ha un grande dono, quello di credere immensamente in se stesso. Non voglio dire che sia uno che racconta delle palle, però gli piace inventare, stravolge sempre tutto e cambia le sue canzoni ogni giorno, perché si rompe, si stanca. Sempre contro la maniera comune di fare le cose, di vedere le cose. Trovare sempre l'altra faccia. Si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria, rimani. Io credo che forse la cosa che vorrei di meno al mondo è far del male a qualcuno. Mi piacerebbe essere un uomo utile, ecco, questo è il mio grande sogno e questo fa parte delle cose che chiedo al cielo. Di lui, un po' per scherzo, un po' no, qualcuno ha detto che è stravagante, egocentrico, frenetico, infantile. In realtà si tratta di un poeta geniale, di un cantante raffinato, di un uomo straordinariamente sensibile, un artista che ha segnato mezzo secolo della canzone italiana, toccando il cuore di tante generazioni, con una serie indimenticabile di canzoni di successo. La Sera dei Miracoli, Futura, Attenti al Lupo, Carusa, Anna e Marco e poi ancora decine e decine di titoli, brani dalle melodie talvolta struggenti, talvolta graffianti, parole che incantano e seducono e raccontano in musica la sorpresa della vita. La sua storia parte da lontano e guarda al futuro, da quel 4 marzo del 43, come ricorda un altro suo indimenticabile brano, ai tanti giovani artisti che Dalla ha scoperto e lanciato. Sentiamo come lo ricorda Gianfranco Baldazzi, amico d'infanzia di Dalla e paroliere. Dice che era un bell'uomo, veniva dal mare. Lui sostiene che noi ci siamo conosciuti durante un bombardamento per la semplice ragione che le nostre mamme, che si conoscevano, ci portavano in braccio e quindi quella è stata la presentazione ufficiale. Successivamente io Dalla lo ricordo benissimo per averci anche litigato ai giardinetti pubblici di Piazza Cavour, che è poi la piazza in qualche modo che mi ha suggerito Piazza Grande. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. E si scoprivano anche le ragazzine, per cui ci trovammo a 7-8 anni a litigare per un amore comune, una certa Beatrice, e non dico altro. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Lucio Dalla ha avuto un'infanzia complicata. Rimasto orfano di padre molto presto, fu tirato su dalla madre che per vivere faceva la modista. Una donna intelligente, energica, ma sempre fuori casa. Lucio perciò passava le sue giornate al collegio. Questo il ricordo dello stesso cantautore e poi di due amici, Pupi Avati e Gianfranco Baldazzi. Devo dire che se non ho mai sofferto di solitudine lo considero un miracolo, ma io non mi sono mai sentito solo perché mi sono sempre adeguato alle situazioni esterne. Fin da piccolo sono stato un trasformista. La prima volta che ho visto Lucio Dalla, lui probabilmente aveva 6 anni. Era vestito in frac, aveva un cilindro, era un piccolino, un bambino piccolino bellissimo. Suonava la fisarmonica e ballava le clacchette e cantava. Io ballavo il tip-tap quando avevo 5 anni e mezzo per gli americani. Poi ho recitato e cantato, ho ballato sul palco. Faceva parte di una compagnia di operette del Bolognese che girava per tutto il Bolognese, dove lui era l'unica presenza di bambino, ma quando entrava in scena lui otteneva un successo senza precedenti, suscitando veramente il delirio delle platee, delle folle. Cioè, allora si diceva enfant prodige, oggi fa ridere, però questo era in effetti Lucio Dalla. Bologna era una delle poche città in Italia allora che organizzasse un festival serio di jazz. Venivano personaggi come Chet Baker, veniva Thelonious Monk, venivano tutti i grandi. Io a 17 anni suonavo con Chet Baker, che viveva a Bologna insieme a grandissimi musicisti di jazz. Io suonavo in questa band che si chiamava Reno Dixieland Jazz Band e il leader ebbe l'idea di organizzare dei brani e due clarinetti e pensò che Lucio potesse essere il secondo clarinettista. Io diffidavo del fatto che Lucio se l'avrebbe mai fatta. Devo dire che sul suo talento musicale come clarinettista avevo molte perplessità. Anzi, mi auguravo addirittura che lui non fosse all'altezza suonando lo stesso strumento. Ahimè, successe il contrario. E lui disse: io vi confesserò una cosa. A 15 anni suonavo il clarino. Jazz. Non lo sapevo suonare assolutamente. Io non conosco una nota di musica. E come fai a scriverla allora la musica? Non la scrivo. Lucio Dalla è apparso all'inizio degli anni 60, ci incontrammo alla RCA, che era allora il punto di ritrovo di tutti quelli che facevano musica, e venne con noi. La nostra band si chiamava The Flippers. La cosa cominciò così, che noi tutti suonavamo jazz. Suonavamo jazz e non facevamo una lira, facevamo delle domeniche pomeriggio, i tè danzanti, queste cose così, dove ci davano 2000 lire in 6 persone per suonare 3 ore dalle 5 alle 8 di pomeriggio. Una volta noi eravamo in Santa Margherita Ligure, mi pare, nel locale, e arrivò una sera un pullman di 50 americani e cominciarono a chiedere dei pezzi. Finché chiedevano pezzi veloci andava bene. Quando chiesero Giorgio on My Mind, noi sospettammo che non saremmo mai usciti vivi da questa cosa perché nessuno sapeva le parole, però Lucio lo cantò tutto quanto. Le uniche parole che diceva erano Giorgio on My Mind. I'm just taking it back to you. What a truly not a kid, not still the time. E io non dicevo nulla di americano o di inglese, però probabilmente questa specie di slang che usavo, Graham Law, gli suonava americano, avranno capito che forse ero matto o ero ubriaco. Riuscì a imbrogliarli così bene che alla fine questi qua applaudirono per un quarto d'ora, cioè la potenza della comunicazione di Lucio anche con un linguaggio non suo, anche in una lingua inventata, era già allora straordinario. Continuiamo con la storia di Lucio Dalla dopo la viabilità. Mix 24, storie di star. Bentornati su Mix 24. Lucio Dalla, lo abbiamo sentito, inizia la sua carriera da giovanissimo suonando nella compagnia delle operette e poi da ragazzo in un gruppo jazz. A raccontare gli anni del suo esordio il regista Paolo Ottaviani e il giornalista Fabrizio Zampa. Il nostro primo incontro con Lucio Dalla è stato durante la lavorazione di uno spot pubblicitario. Spot. A quell'epoca si chiamava Carosello, durava 3 minuti, erano proprio dei piccoli film. Salta su, corri in fretta insieme a noi, ecco arrivati i posti. L'idea era di prendere questo gruppo musicale, non conoscevamo Lucio, conoscevamo il gruppo, ci piaceva la musica che facevano, di metterlo su un camioncino scoperto e farli attraversare le strade di Roma suonando. Era un'idea folle, ma allegra, e devo dire che sia Lucio che i suoi amici la interpretarono con molta allegria. Lo vedrai, è sicuro di se stesso, ciò che vuole lui lo sa. Ci mettiamoli agli piedi, non facciamolo aspettare. Per un paio d'anni abbiamo suonato in tutti i club d'Italia, in tutti i locali possibili e immaginabili. Noi suonammo una volta in un locale di Torino che si chiamava Arlecchino. C'era un palco che era alto così, all'altezza della la gente ballando vedeva i piedi di chi stava sul palco. Era una serata in smoking, tutti eleganti, Lucio arrivò senza i calzini. Il proprietario del locale disse: ragazzi, non fate salire sul palcoscenico quello senza i calzini. Allora dicevano: Lucio, trova un paio di calzini. Dicevano: come, albergo distante. Alla fine Lucio si tinse i piedi con un pennarello e sembrava che avesse i calzini. Cioè, questo era Lucio. Una volta cercammo un soprano per fare un pezzo. Morricone disse: ragazzi, non trovo la soprano, prendiamo Dalla che è meglio. Ma arriva un momento in cui Dalla sembra stanco della musica. Durante le esibizioni suona il clarinetto dando le spalle al pubblico. Arriva in ritardo alle serate. Mostra, insomma, segni di stanchezza. Un bel giorno Dalla abbandona il gruppo e scompare. È un momento della svolta. Ritorna sulla scena dopo 2 anni ed è quasi irriconoscibile. Responsabile di questo cambiamento fu Gino Paoli. Sentiamo il suo ricordo e quello di un altro grande, Gianni Morandi. E poi Pupi Avati e Gianfranco Baldazzi. Ci siamo innamorati a vista d'occhio. Cioè, quando ci siamo incontrati io sono impazzito per questo piccolo uomo geniale, di fantasia. Di Gino Paoli. Io ricordo benissimo una sera al Whisky Go Go, venne Gino Paoli, che era una grandissima star, era il numero uno, si incuriosì, lo volle conoscere e di lì credo sia iniziata questa loro collaborazione, questo loro sodalizio. Ed è finita che ha voluto produrre un disco di Dalla, e Paoli in quell'epoca era il Paoli di Sapore di Sale, per cui era potente, stava diventando potente. Guarda che è circa un anno che non ci si vede, eh? E te mi sembri un po' freddino, in fondo, cosa dici? Sai che io non riesco a essere diverso da quello che sento. Diciamo che il nostro capo, fra virgolette, quello che ci insegnava tante cose era Gino Paoli, che ha qualche anno più di noi, ci insegnava cos'era la vita, cos'era l'amore, come si doveva affrontare il palcoscenico. Insomma, era il nostro ispiratore. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. E io ero molto affascinato da Paoli. Ritenevo che Paoli, come lo ritengo oggi, fosse uno degli artisti più importanti della nostra storia, lui, Tenco, Endrigo, ma Paoli era quello che mi appassionava di lui. Lui ammirava molto Lucio perché era pazzo, perché era scatenato, perché era pieno di inventiva e modificava le cose all'ultimo momento, eccetera. E allora lo consigliò, cioè gli diede i suggerimenti, gli disse: mettiti a studiare per conto tuo, scrivi dei pezzi, fai delle cose e poi si vedrà. Breaking news. Sarebbero stati liberati gli altri 2 tecnici italiani rapiti in Libia, Gino Tullicardo e Filippo Calcagno, lo scrive Domenico Quirico, inviato della Stampa. La Farnesina poco fa ha detto che sono in corso verifiche sulla notizia. Ma la sua musica ed il suo personaggio erano forse troppo innovativi per quel periodo. In questo tipo di manifestazioni, Dalla si classificava puntualmente tra gli ultimi. Ma poi, piano piano, qualcosa inizia a cambiare. Questo è il ricordo dell'amico Gianfranco Baldazzi. Uno dei primi piccoli successi che Dalla fece discograficamente era Il Cielo, una canzone che ha sempre odiato perché lo costringeva a cantare la canzone come un cantante normale. Lucio Dalla canterà In Cielo. Non da Ray Charles, da Otis Redding o da Chet Baker, ma da cantante melodico, melodico ritmico. E questa era una cosa che credo che l'abbia fatto soffrire davvero molto. Il Cielo! Dalla non è un cantante normale, è un talento assolutamente originale. non solo per ciò che canta, ma anche e soprattutto per come lo canta, per quella vocalità morbida e pastosa che trattiene tutte le sonorità del jazz, per quella sua estensione vocale e per quella passione tenera e disincantata. Sul finire degli anni Sessanta Dalla è già un nome conosciuto, ma non è ancora decollato. È un outsider perenne. I suoi dischi faticano a imporsi. Non ha niente a che fare con il mondo della canzonetta ed è insofferente verso il perbenismo che fa ancora da cornice alla musica popolare. Si sente un proletario della canzone che, dice lui, se ne frega delle convenzioni. Ma tutto questo ha un prezzo, soffre di una fortissima ulcera e ogni tanto tende a sparire dalla circolazione. Nel mondo della canzone italiana, del resto, il suo disagio non è un caso isolato. E nel febbraio del 67 quel disagio esplode con un colpo di pistola nella notte. Le parole dello stesso Dalla e poi di Gino Paoli. Si stanno per concludere a Sanremo le votazioni per designare le canzoni finaliste della prima serata. Nettamente in testa, Io, tu e le rose, cantata da Orietta Berti e votata in massa. Si profila l'eliminazione di grandi protagonisti come Modugno, Fidenco, Bongusto, Reitano, Dalida, Bobby Solo. Sentito delle grida. E allora sono corso subito, credo che fossero delle cose di allegria. Sono corso subito e Dalida mi ha visto, mi ha chiamato e mi ha detto di andare a chiamare un medico, ero molto sconvolto. La questione di Luigi è uno sbaglio, è un fottuto sbaglio. Era fuori di testa in quel momento, perché sapevamo tutti che era fuori di testa, noi che lo conoscevamo, noi che avevamo fatto le stesse cose che stava facendo lui in quel momento. Quello mi mandò in crisi perché arrivavamo poi a Sanremo insieme, ero molto amico di Luigi e soprattutto lo stimavo moltissimo. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Lucio, dove vai? Si fa notte nel cielo. Dove dormirai? Lucio, dove vai? Tu cosa vuoi dalla vita? Non lo so, francamente, ancora. Cioè, lo so, ma è una cosa difficile da dire. Voglio molte cose, voglio la tranquillità, voglio non avere problemi, voglio andare d'accordo con tutti, nello stesso tempo non voglio avere tutte queste cose. E come pensi di ottenerlo questo? Non certo vivendo come sto vivendo adesso, non so, con degli sforzi, non so. Allora pensi che il tuo lavoro ostacoli la realizzazione delle cose a cui aspiri? Sì, sì, senz'altro. Insomma, Dalla sta sviluppando un vero e proprio rifiuto per la musica e per il suo ambiente. Si convince che quello della musica non è il suo vero percorso. Intanto il regista Luigi Taviani è alla ricerca di un personaggio per il film Sovversivi. Un fotografo pieno di idee e fantasia, ma allo stesso tempo inquieto e pieno di contraddizioni. Un personaggio che sembrava scritto proprio pensando a Dalla, che dette vita ad un'interpretazione indimenticabile. Siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri, non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È il 1968, in un'Italia in subbuglio, dove arriva l'onda lunga della contestazione e della protesta. Lucio Dalla è un giovane di sinistra da sempre attento ai temi sociali. Eppure si sente ancora un provinciale e su quella rabbia giovane che lui osserva dai margini mantiene uno sguardo ironico e disimpegnato. Io non credo assolutamente nella protesta verbale, cioè, soprattutto perché parliamo di canzoni. Nelle canzoni è importante ancora più del testo, dato che siamo in Italia e sono rivolte a un certo gruppo di persone, è più importante l'immagine, secondo me. E cioè, cosa intendi per immagine? L'immagine, cioè il fatto teatrale, il fatto scenico. Ma dopo tante sperimentazioni, dopo tante scommesse, finalmente per Dalla arriva il successo. È il 1971 e il cantautore scrive 4 marzo 1943. Una ballata che nulla lascia trasparire del passato da jazzista del cantautore. è un grandissimo successo. Così lo ricorda Gianfranco Baldazzi. Questa canzone gli cambiò la vita, perché in effetti non aveva mai venduto un disco, vendette 400-500 mila copie in Italia. La registrarono 10 cantanti che la trasformarono in un successo mondiale, come Sico Buarque di Olanda in Brasile. Os ladrões e amantes, meus colegas de copo e de cruz. La storia continua dopo la pubblicità. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mix 24, storie di star. Chissà domani su che cosa metteremo le mani. In che cosa credi soprattutto? Io credo proprio nell'uomo, cioè nella sua possibilità di essere totale. Credo moltissimo nell'amore, ma in un amore assoluto. Credo nella possibilità di riscattarsi. Credo che nessuno debba essere mai giudicato fino in fondo. Credo sostanzialmente perché sono cristiano, perché credo in Dio, ecco, con tante contraddizioni anche lui. Credo in Dio, credo in me stesso. Dalla sembra finalmente aver trovato la strada, eppure paradossalmente proprio questi due successi commerciali così tanto attesi lo mettono di nuovo in crisi. A Dalla manca ancora qualcosa. Con una scelta coraggiosa che i suoi discografici non riescono a capire, lascia i suoi collaboratori abituali e si affida a un nuovo paroliere. È Roberto Roversi, un poeta raffinato, colto, impegnato. Con lui affida al pentagramma canzoni che parlano della gente comune, della società in cui vive. Anni dopo dirà: il mio 68 io l'ho fatto nel 72. Sentiamo la sua stessa voce, ancora quella di Baldazzi. Sono le 8 di sera quando appare la prima bandiera rossa sui muri della via. Probabilmente Roversi è stato mio padre, mio maestro, mio istruttore. Mi ha insegnato a respirare, voglio dire. È talmente stata una scuola una per bella me, fortuna, sì. Una grande fortuna, che in realtà cantare le cose che progettava lui era il massimo del divertimento. La musica s'accodava. Nulari e basso di statura, nulari e al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Dalla cominciò a frequentare questi ambienti teatrali portando le canzoni ad un pubblico fatto di operai, di gente umile, e avendo un successo strepitoso. Un'esperienza, quella maturata negli ambienti teatrali a contatto con la gente, che lo avvicinerà al pubblico ed influenzerà la sua successiva produzione musicale. Poi Dalla si sgancia da Roversi ed inizia a scrivere da solo. A ricordare quella svolta il suo amico d'infanzia Pupi Avati. Caro amico, ti scrivo, così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Io scoprii quella canzone con un'emozione via via. Ogni volta che l'ascoltavo mi rendevo sempre più conto di quel ragazzino col quale io avevo trascorso tanti tanti anni della mia vita, senza rendermi forse fino in fondo conto di quello che fosse la sua straordinaria capacità di comprendere un tutto nel quale tutti noi ci riconoscevamo. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sacco vicino alla finestra. Ecco, quindi mi sono fortemente ricreduto nei riguardi di quell'atteggiamento snob, un po' schizzinoso, un po' supponente, che invece contrassegnava i ragazzi della Bologna bene, che guardavano appunto a Sanremo e i suoi cantanti con molta sufficienza. Ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Ho sempre cercato di dire qualcosa per cui chi ascolta diventasse lui il protagonista. Ma per esempio una canzone che io amo moltissimo come Anna e Marco. Ecco, Anna e Marco sono due protagonisti delle mie canzoni costanti, non solo in quella canzone ma in tutte le altre. Ed è una rielaborazione di una giornata che vivono questi due normalissimi individui di periferia che magari stanno al bar sotto dove abito io, e che io con uno stupore inebetito di uno che li segue e li immagina anche se non li segue fino in fondo. È chiaro che la gente si riconosce in questo fatto. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche. Anna che vorrebbe andare via è un verso simbolico di un'epoca e di una generazione. Al tramonto degli anni 70, Lucio Dalla è tra quegli interpreti che ne hanno interpretato al meglio gli umori e le nevrosi, la beffa e la malinconia, le contraddizioni e la disperazione. Per l'uomo e per l'artista è un momento di grazia, un magico accordo che lo pone al centro della scena. Attenzione, scusate amici, attenzione, sono Lucio Dalla. Per ragioni tecniche di mancanza di sicurezza siamo costretti a rinviare il concerto per domani alle ore 20. Vi ringraziamo io e Francesco della pazienza e dell'affetto che avete avuto aspettandoci. Veramente siete degli amici. A domani alle ore 20, grazie. Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche? Nell'estate del 1979 nasce un nuovo sodalizio artistico. Lucio Dalla e Francesco De Gregori danno vita ad uno storico tour. Si tratta di Banana Republic. Per la prima volta la musica popolare arriva negli stadi di tutta Italia e li riempie. Due cantautori così diversi eppure così simili. Un sodalizio che registrerà un successo senza precedenti. Le loro giovani voci raccontano quell'incontro e poi il ricordo di Baldazzi. Ma l'incontro è stato prima umano e poi artistico, devo dire. E all'inizio non è che non lo capissi, ma non mi interessava il suo modo di far musica perché era talmente lontano dai codici che per quanto io, uomo non amante dei codici, venivo quasi schizzato o schizzavo lui. Credo che la gente si diverta a vederci in due, proprio perché la negazione di tutti gli schemi impresariali, tecnici. E mi ricordo che Dalla mi disse: senti, ma secondo te faccio bene a fare questo tour? Io sul palcoscenico vicino a De Gregori, che figura ci faccio? Dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di un riso, di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una rissa da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Cioè, diceva, io in fondo è come Don Chisciotte e Sancho Panza. Quindi anche in quel caso Dalla faceva una cosa coraggiosa, ma aveva paura. Temeva che il confronto lo danneggiasse. A baciarsi tra di loro e a rimanere veri uomini, però. Era forse la prima grande tournée italiana, cioè quello che succede oggi con Vasco. Nell'80 lo facciamo con Banana Republic, stadi pieni, esauriti, mai un incidente. Sembravamo io Topolino e lui Pippo, perché lui lungo e io piccolo. Cioè, questo faceva spettacolo, oltre che in fondo eravamo dello stesso canale. Un giro per l'Italia a Don Francesco De Gregori, in questo giro che mi ha fatto per l'Italia, c'era un altro musicista molto importante, che è l'arrangiatore di Come profondo il mare, di altre canzoni come Disperato erotico Stomp e altro, che ha scritto la musica di questa canzone che io e Francesco insieme cantavamo e cantiamo. Lui è Ron. Dalla, sulla sua strada, incontra Rosalino Cellammare, riconosce subito il suo talento e nasce un altro di quegli incontri che hanno regalato alla musica italiana grandissimi successi. Lo stesso Ron ricorda quell'incontro. Io credo di aver inserito nel suo mondo la chitarra acustica, che lui non considerava molto, primo perché non la sapeva suonare, secondo strimpellava il pianoforte, per cui non aveva probabilmente vicino persone che suonassero la chitarra, per cui anche i suoi arrangiamenti, le sue cose che faceva, io intervenivo sempre con la mia chitarra. Tra i ragazzi italiani ci sarai anche tu. Io ero uno che potevo benissimo smettere a un certo punto di fare questo lavoro. Lucio non mi diede questa possibilità di smettere, non me l'ha voluta dare. Perché diceva: tu sei matto perché sei bravo e arriverai. L'RCA americana e quella italiana fanno un accordo: promuovere la country music in Italia. A questo scopo Lucio Dalla e Rosalino e il sottoscritto viaggiano per gli Stati Uniti per incontrare i mostri sacri della country music. Beh, dopo qualche settimana Lucio dice: ma io con questi cafoni non ho niente a che spartire, che cosa faccio qui? Prende e se ne va e mi lascia in asso vicino a Nashville in una stazione di servizio. L'anno dopo sono tornato sul luogo del delitto e ho dovuto fare da solo la storia della country music. Era il giornalista Franco Schipani. Che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà? Banana Republic è un trionfo clamoroso, uno di quei grandi appuntamenti dell'immaginario giovanile dal 78 in poi. Per Lucio Dalla è un'altra tappa di un viaggio che continua a portarlo sempre su nuove strade. Chiamato a cantare in America, ne ritorna con una canzone che stavolta lo renderà famoso nel mondo, Caruso. Angela Baraldi, attrice, cantante, corista di Dalla, ricorda il momento in cui quella famosissima melodia venne scritta. Quando lui ha scritto Caruso, casualmente, io mi trovavo a Sorrento e prese questa camera in questo hotel di Sorrento, che era la camera dove stava Caruso. E mi disse: dai, vieni su, ti faccio vedere il pianoforte di Caruso, ti faccio sentire le prime note di questa canzone che voglio. E comincia con questa canzone. E veramente gli venivano fuori queste frasi fra una risata, un bicchiere di vino. E così, quindi io ho avuto questo onore così di assistere alle prime note di questa canzone, che dopo è diventata grandissima. E lui mi ricorda: ti ricordi quel giorno che ti sei... Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Tutti mi chiedono: ma che canzone commovente, Malinconia. C'è la malinconia, io la vedo alla Leopardi, non come un momento di struggimento, come siamo, sai, un tipo malinconico, no. Cioè, come fai a essere malinconico quando tutto è vitale? In qualsiasi momento Lucio può essere alle stelle, il momento dopo può essere anche nella disperazione, quindi è probabile che la sua dinamica emotiva, creativa, artistica, umana, umoristica sia tale. Il mondo della musica è anche questo, è anche soffrire, ecco, quindi non tutti sono così, quindi secondo me è un grande artista, e quando canta lui Caruso non ce n'è per nessuno. Non arriverebbe attraverso la sua creatività a commuovere se non avessi un'immaginativa così profonda. Cioè, Lucio è una persona che è in grado di commuoverti con la musica, con le parole. Questo spetta solo ai grandi artisti. A New York c'era anche il giornalista Franco Schipani. Alla fine di una tournée nel Nord America, Lucio Dalla arriva a New York per registrare Dall'America Russo. Per la prima volta esegue Caruso. Lo stage qual è? Quello del Village Gate, prestigiosissimo di New York, dove hanno suonato un po' tutti i grandi artisti internazionali, i mostri del jazz. Mi ricordo che il proprietario, io gli affittai il posto per registrare appunto dal vivo questo special, me lo diede così, diciamo, in buona fede, non sapendo neanche chi fosse Lucio Dalla. Beh, mi chiama dopo due giorni e mi dice: Franco, ma chi è questo Lucio Dalla? Non ho mai avuto tante richieste di biglietti per un concerto dal vivo, ma qui con Lucio possiamo fare non due serate, possiamo fare due mesi. Ovviamente Lucio declinò e ritornò in Italia. È la vita che finisce, ma lui non Dalla ci pensa è all'apice della sua carriera. E tuttavia c'è un debito che Dalla ha lasciato nel suo passato: l'accoglienza, l'amicizia, la solidarietà di un amico vero, Gianni Morandi. Quando Morandi era un numero uno, Dalla era uno degli ultimi. A metà degli anni Ottanta, invece, le storie della vita li hanno trovate a parti rovesciate. Morandi esce da un periodo difficile, sia artistico che personale, mentre Dalla sembra all'apice del successo. A questo punto è Dalla ad aiutare Morandi. Il loro tour dell'88 è la scommessa di due artisti dallo stile e dal pubblico diversissimi che tuttavia riescono a creare un evento che entra nella storia della canzone italiana. Prego di Siracusa stipato all'inverosimile, si calcolano già 15.000 persone per vedere quella che è l'ultima tappa della di una tournée fortunata, una tournée che ha visto in scena due grandi della musica leggera italiana, Lucio Dalla e Gianni Morandi. Quando io gli proposi facciamo questa cosa insieme, tra l'altro i discografici dell'epoca non la capirono assolutamente, perché dicevano: se volete divertirvi, divertitevi. Per la verità vendemmo 1 milione di dischi del nostro disco live. E la gente si divertiva soprattutto a vedere questa specie di braccio di ferro che ero io e questa specie di Amleto popolare che era lui. Cioè il contrasto funzionava, creavamo proprio una dinamica. Io ero uscito da, insomma, diciamo, da un periodo di crisi, mi sentivo pronto per affrontare un'esperienza del genere, però avevo un po' paura il confronto con Lucio Dalla sul palcoscenico. Che figura farò io davanti a lui? Dimmi che bestia sei. Il mondo era cambiato. La stagione dell'appartenenza politica è finita. Anche la musica si rinnova. Ed il pubblico chiede sempre più divertimento, leggerezza e buona musica. Nel concerto si univano la voce potente di Morandi e l'intelligenza, la sensibilità, l'arguzia di Dalla. Ma anche le storie di due persone. Una vera operazione nazional popolare. Il racconto nelle voci delle vocalist Iskra Menarini ed Angela Baraldi. E poi degli stessi protagonisti. Sicuramente vedere Dalla insieme a Morandi ogni sera, che facevano a gara, no? Il più bravo, quello che cercava più l'applauso, sicuramente faceva sì che lo spettacolo fosse veramente 100, 1000, 2000, la sua forza. Ogni sera c'era una specie di sfida sotterranea fra me e lui, due grandi amici che però senza farsi lo sgambetto, ma con una sfida bella, aperta. Io non so chi era più bravo tra me e lui, lui era convinto di essere lui, tutte le volte che parlavamo. Lui ridacchiava un po' dietro con questo, la sua tastiera e magari io cantavo una canzone che andava molto bene con un grande applauso, allora io gli facevo una mezza battuta, dico: adesso tocca a te, vediamo che fai. E poi lui, non so, io facevo Caruso, lui veniva da me, ma non era da copioni, diceva: ti spacco le ossa. Cioè lui la viveva sempre come una partita di calcio, però in realtà io sapevo che lui aveva stima di me, aveva stima anche perché non aveva mai avuta prima, cioè quando io feci il mio primo disco lui rimase perplesso, cioè sosteneva che era un disco interessante, però sua madre diceva che sembrava un cavallo, però dice, di mandare dalla mamma prendere latte. Mi ricordo sempre il finale dello spettacolo, l'ultimo pezzo era fatti mandare dalla mamma a prendere il latte e lui come fatto simbolico tirava fuori una pistola d'acqua e mi sparava, io crollavo sul palco, come dire, basta. Ma Lucio Dalla non si occupa solo degli amici che vivono un momento di fragilità, ma anche di scoprire nuovi talenti. Luca Carboni, Samuele Bersani, Iskra Menarini, Angela Baraldi e poi Marco Alemanno, quasi a restituire anche quello che la fama e il successo gli hanno dato. È una nuova stagione della sua lunga carriera, quella forse più inedita e sorprendente. A raccontarlo Ron, Gaetano Curieri e alcuni di quegli artisti che da Dalla sono stati scoperti. Lucio sentì questa canzone a casa mia, è una di quelle canzoni che si scrivono e sai già che non le farai, che non le registrerai perché capisci che non è per te, a volte succede. E Lucio la sentì e mi dice, se me la dai vendiamo 1.000.000 di dischi, ne ha venduto 1.500.000, a dire la verità. È stato un po' come la Lambada, era l'anno 90, fu un'estate infuocata di Attenti al Lupo, insomma. Con dentro un sogno da realizzare, e più ci pensa, più non sa aspettare. Forse era l'unico che poteva in fondo così entrare dentro a questa canzone, che è una canzone che io scrissi poi alla fine pensando a una coppia che ha paura del mondo, il lupo è il mondo, insomma, da cui ha paura uscire di casa. Lucio invece diede una lettura sicuramente più ironica, e poi quel balletto famoso. Diciamo che Lucio è un talent scout poi straordinario, uno che vede molto lontano. La storia di Carboni è fantastica. Io devo dire la verità che lui mi dice ha un talento enorme. Io la sentì e non sentì questa cosa forte che sentì Lucio. Diventò Carboni, insomma. Ma che amore incredibile, due anime nere, capelli caduti che schifo. Proprio dentro al bicchiere. Quando lui qua fa queste cose qui, le fa sempre con un grande entusiasmo. Quando propone un cantante a una casa discografica, un ragazzo che sta cominciando, lui in quel momento, quel cantante, è il più bravo del mondo. Cioè non lo fa, lo fa con questo spirito. Io mi ricordo Samuele Bersani che venne con una cassettina e Lucio gli disse, vuoi cantare così? In un concerto anche molto importante. Restiamo ancora qui in due davanti a questo grande mare. Ho fatto il primo disco che avevo 21-22 anni, quindi oggi posso dire che anche se non ho più dei contatti diciamo da artista discografico, perché lui per diversi anni è stato il mio discografico, lo considero il mio maestro. Quando Dalla mi fece la proposta di andare a suonare con lui, lo vidi come proprio l'idea di un ragazzo che va a bottega da un grande artigiano, perché secondo me Dalla è questo, è un grande artigiano della musica. Mi sembrava incredibile, perché io l'avevo sognato quando ero sotto il palco a vedere De Gregori e Dalla, un giorno di poter essere una loro corista, cioè era un mio sogno, mi immaginavo anche come mi sarei più o meno vestita. Io ho ricevuto tanto, ma credo di avere negli anni anche, come posso dire, la mia leggerezza un po' strana, forse lo ha alleggerito tutto sommato, può darsi anche. Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei. Io devo darla sicuramente una parte della sua vita importante come artista, forse la più importante. Per cui non lo ringrazierò mai abbastanza, perché ha dato proprio una parte di se stesso, cioè che è la scrittura. E poi una fiducia estrema. Io non ho dubbi, tu esisti e splendi, con quel viso da ragazzo, con la barba senza età. Lucio si è sempre considerato una specie di papà per tutti gli artisti che ha preso sotto la sua cosiddetta ala protettrice. Un padre, come lo definisce Fabrizio Zampa, ma anche un demiurgo, un caposcuola. Ha diretto opere teatrali, ha scritto colonne sonore, sempre alla ricerca di nuovi progetti e nuove iniziative. Tutto questo e molto, molto di più è stato Lucio Dalla, scomparso il 1 marzo del 2012 in Svizzera, lasciandoci tutti orfani di un grande poeta. Non vedo che qualcuno mi possa criticare perché faccio una regia di Stravinsky o di Prokofiev. La voglia che io ho di fare sempre cose che non ho fatto, questo è il mio gusto per l'arte. Poi che uno possa dire o che possano dire che sono in declino mi sembra legittimo. Certo non mi spaventa né mi avvilisco. Potrebbero dire che sono andato sotto un treno, è più grave, hai capito? Per cui cerco di immaginarmi il declino come un momento di libertà.